il gioco del Monopoli per dire che di solito, cioè, che i cittadini in questo quartiere vengono considerate pedine e invece gli interessi privati vengono diffusi, cioè si realizzano in tutte le piazze che stiamo attraversando. E in particolare, appunto, siamo partiti da Piazza Perestrello, dove c'è una piazza transennata, un progetto per una riqualificazione del mercato che non è stato realizzato, mentre il parcheggio interrato il privato l'ha realizzato e il profitto ce l'ha fatto. E adesso stiamo arrivando a Gabrino Fondulo, dove c'è anche qui un'altra piazza transennata. Questa è il frutto del il risultato del contratto di quartiere del Rinascimento Pigneto, si chiamava. Sì, famoso, il famoso contratto, esatto, di quartiere. Esatto, che... doveva venire un centro civico, esatto, doveva essere espropriato un autolavaggio che ci sta passando adesso davanti, sta ancora qui. E fra l'altro il proprietario dell'autolavaggio sarebbe dispostissimo ad andarsene se lo pagassero. Certo. Ma non viene pagato e la piazza è transennata, è fra l'altro un luogo di incontro di ragazzi, di bambini, nonostante le transenne vengono qui a chiacchierare, a giocare, perché dietro c'è un giardinetto con i giochi, quindi è realizzata la piazza, il centro civico no, però la piazza è semplicemente, manca il collaudo e quindi rimane transennata. E come queste, insomma, ne attraverseremo parecchie, purtroppo, nel nostro quartiere, di questi luoghi, che sono tutte il centro di vertenze dei diversi comitati, associazioni, organizzazioni sociali e territoriali che hanno promosso questa manifestazione. Certo. Senti, tu parlavi del contratto di quartiere, di cui ricordo mi pare 2 o 3 anni fa, mi pare, no? Venne fa. Addirittura 5 anni fa. Ecco, la valutazione che voi date del perché, diciamo, è stato completamente inattuato, quali interessi hanno messo in moto invece queste speculazioni che denunciate qui sul volantino? Sì, è stato un inganno il famoso articolo 2. Quello della compensazione, quello con cui il privato, una volta che gli veniva concessa la licenza, gli veniva data la concessione di costruire, doveva compensare, diciamo, la cittadinanza con la costruzione di un'opera pubblica che era assolutamente definita e costruita insieme ai cittadini. Quindi è stata una fatica il fatto di partecipare, anni di discussioni e di contrattazioni, appunto, con tutti gli interessi messi in gioco, no? Pubblici e privati. E invece la logica è quella del profitto. Il profitto, una volta che viene fatto il profitto, è difficile che il privato intervenga per concedere pure la parola l'opera pubblica. Il fatto è che dovrebbe essere il contrario: prima mi realizzi l'opera pubblica e poi ti do la concessione a costruire. Certo. È questo. Senti, ecco, vabbè, quindi voi portate avanti un ampio spettro di problemi, vedo, dal territorio verde agli asili per bambini, alla sostenibilità, soprattutto a impedire quella cementificazione prevista nella copertura del tracciato ferroviario. Quindi, esatto, ecco. Il fallo ferroviario, adesso c'è anche la questione della SNIA che con il piano case, esatto, potrebbe essere oggetto di una forte speculazione. Il fatto è che abbiamo messo insieme, cioè ci siamo resi conto, lo sapevamo, però finalmente siamo riusciti a farlo, a mettere insieme tutte le vertenze, che se le porta avanti un singolo comitato di quartiere, una singola associazione, sono piccole vertenze, in realtà hanno un filo comune, che è questa della speculazione. Certo. Per cui ci siamo dati questo titolo, diciamo, simbolico del Monopoli, per dire, alla fine, dagli spazi verdi per i bambini alle strade ad alta percorribilità che distruggono la mobilità, diciamo, di locale, di zona e rendono difficile la vita dei cittadini, alle piazze, agli spazi pubblici, la logica che sta sotto è sempre la stessa. Certo. Certo. Senti, quindi, vabbè, voi come diciamo controparte, per capire e per usare questi vecchi termini, avete il municipio da una parte, ma anche il comune e non solo. Sì, anche la regione. Anche la regione, certo. Sì, perché il municipio, diciamo, è contestato perché è l'amministrazione locale con cui direttamente ci interfacciamo e che non è in grado di darci risposte, oltre che, diciamo, denigra, soprattutto per esempio il comitato di quartiere Pigneto Prenestino, cioè una modalità di risposta che è denigratoria ormai da parte del municipio. Sì, sì. Per cui noi, anche considerando, diciamo, le competenze del municipio, diciamo che dobbiamo rivolgerci anche e soprattutto al comune e alla regione, perché lì stanno i finanziamenti importanti che sono già stati stanziati per tutti questi progetti. Certo. Quindi, per esempio, nel caso della biblioteca di Via Mori, che Via Mori, è stata tolta e che deve essere messa nella locale della ex Serono, dove secondo il contratto di quartiere ci doveva essere la casa del quartiere, la casa del municipio, luogo di partecipazione, emergenza biblioteca, la biblioteca dove la mettiamo, guarda caso, proprio lì, perché così ci stanno spazi in meno, soprattutto uno spazio in meno di partecipazione. Invece alla regione ci sono 350.000 euro finanziati per il rifacimento dei locali, quelli con l'amianto, di Via Mori, dove stava la biblioteca. Quindi lì il finanziamento bloccato alla regione, ultimo bilancio non è stato rifinanziato, il municipio perde tempo, il comune perde tempo e si perdono i soldi. Certo. E i cittadini perdono i diritti. Certo. Quindi questa è la... Senti, ecco, dopo questa manifestazione intanto sta riuscendo, sì, siete parecchi. Sì, siamo parecchi. Benissimo. Siamo parecchi. Per essere una manifestazione di quartiere siamo parecchi, e poi sono diverse le realtà rappresentate. Esatto, infatti. Senti, arriverete quindi all'Arco Gabballini e poi da lì come proseguirà la giornata? Da lì poi ci sarà un'assemblea pubblica che si svolgerà alla Serono, all'ex Serono. Certo. Che abbiamo un po' assunto al luogo simbolo di tutto, sì, questa logica, e poi uno spettacolo teatrale, interventi, insomma, dalle due, diciamo, in poi siamo lì all'ex Serono. Okay. Senti, e quindi discuterete pure come continuare, come proseguire la lotta, immagino. Assolutamente. Adesso questo è un gruppo di associazioni che si è costituito, che comunque da anni, diciamo, collabora per diverse, si scambia, diciamo, informazioni e vertenze, sostegno nelle vertenze. Però da qui questa manifestazione sancisce il fatto che lavoreremo insieme su...